me pare assolutamente normale che un'istituzione, quella che io rappresento, si sia comportata applicando la legge in maniera tale che continui a valere quel principio secondo cui la legge è uguale per tutti. Se qualcuno pensava di poter strumentalizzare, utilizzare, influenzare in qualsiasi modo una istituzione come il Procuratore Nazionale Antimafia, si è sbagliato. Le funzioni del Procuratore Nazionale sono quelle di coordinare le indagini, cosa che è avvenuta. Non c'era nessun motivo per altre soluzioni del tipo di quelle che la legge prevede. Palermo e Caltanissetta, entrambe le procure, erano animate dalla ricerca della verità, che è quello a cui tutti noi dobbiamo tendere e tendiamo.